Ad alta voce. Le Metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro undicesimo, versi 346-582. A Ceice, re di Tessaglia, si è ucciso il fratello Dedalione, che Apollo ha mutato in sparviero, e non se ne dà pace, come sta raccontando a Peleo, suo ospite, esule e fratricida. Mentre Ceice racconta l'incredibile storia di suo fratello, arriva di corsa la lingua di fuori un guardiano delle mandrie, Onetore della Focide, urlando: «Peleo, Peleo, ho un'orrenda notizia da darti, Peleo!» E lui, Peleo, gli intima di parlare di qualsiasi cosa si tratti. Anche il re Trachinio pende tremando da labbra che tremano, e quello attacca: «Sfiniti, i buoi me li porto nell'ansa della spiaggia, che il sole, toccato il punto più alto del giro, vede tanta strada di dietro quanta ne vede davanti. Mi si accovaccia sul biondo della sabbia una parte dei buoi a contemplarsi l'immensa campagna dell'acqua, un'altra parte mi trotterella tranquilla di qua e di là, e poi ci sono quelli che nuotano col collo che sbuca dal mare. Vicino alla spiaggia c'è un tempio senza né marmi né ori, ma in mezzo all'ombra degli alberi d'un bosco vecchio ma vecchio, roba di Nereo e Nereidi. Che si tratti di dei marini, me l'ha detto un buon barcaiolo che stava a stender le reti. Lì attaccata c'è una palude con tutti i salici intorno, che è diventata palude perché il mare ci ha fatto ristagno. Beh, da lì, dalla macchia, ti salta fuori, facendo un urlio che gela i dintorni, una bestia enormissima, un fulmine, un lupo con la bocca impastata di schiuma e sgocciolante di sangue, e gli occhi che gli scintillano d'un rosso come di fuoco. È una furia, vedessi, una furia di rabbia e di fame, però più rabbia che fame. Difatti non è che si occupi tanto del mangiare, gli basterebbe, se ha fame, azzannar qualche bue. Lui invece si butta su tutta la mandria, tutti li scanna. E anche qualcuno di noi, che da ferito fa tanto di difendersi, quello lo ammazza. La spiaggia, l'orlo del mare, è tutto un bagno di sangue, la palude rintrona di urlacci. Qui c'è poco da perdere tempo, non c'è da discutere, qui finché c'è ancora qualcosa da salvare bisogna che tutti insieme, armi, qual armi, ci buttiamo a dargli la caccia. Il mandriano ha parlato, ma Peleo non pare turbarsi. Ricorda il suo fratricidio e capisce che questa è una funebre offerta resa dalla Nereide sua madre all'ombra di fuoco. Il re dei Tessali ordina ai suoi di vestirsi di ferro, di armarsi d'armi d'assalto ed è pronto a partire con loro. Richiamata però dal trambusto, si presenta Alcione, sua moglie, spettinata com'era, che anzi si spettina apposta di più. E gettate le braccia al collo di suo marito, lo supplica a parole e singhiozzi di non prender parte in persona a quel corpo di spedizione, salvando con la sua vita due vite. Il figlio di Eaco le fa: «La tua paura, regina, ti onora, ma non preoccuparti. La tua offerta basta alla mia gratitudine. Non si fronteggia con le armi un prodigio del genere. Preghiamo piuttosto gli dei del mare». C'è un'alta torre con un fuoco in cima, segnale propizio alle navi in pericolo. Saliti fino lassù, con grande sgomento, contemplano costellata tutta la spiaggia di bestie morte e la belva assassina imbrattata di sangue sul grugno e sul pelo lungo. Allora, tendendo le mani verso il mare aperto, Peleo implora di perdonarlo l'azzurra madre di fuoco e di prestargli aiuto, ma lei non si lascia commuovere dalla voce del figlio di Eaco È Teti, sua moglie, che ottiene, intercedendo, il perdono. Il lupo però non recede dalla strage, goloso com'è della dolcezza del sangue, finché, aggrappato al collo d'una povera vacca sbranata, non diventa di marmo. È identico a com'era prima, fuorché nel colore. È il colore di sasso, che dice che quello non è più lupo, che ormai non c'è più motivo di averne paura. Ma non permette il destino che Peleo, il fuoruscito, si fermi in questa provincia. Così l'esule arriva al paese dei Magneti e lì, grazie ad Acasto, si purga del fratricidio. Intanto Ceice, angosciato dal prodigio occorso al fratello in ordine a quelli occorsi dapprima a sua figlia, decide di consultare l'oracolo, sollievo del genere umano, e parte per il santuario di Claro. Accedere a quello di Delfi è impossibile, colpa dell'empio forbante e dei flegii. Prima però quel progetto lo confida a te, fedelissima Alcione, e subito il gelo ti corre dentro le ossa e un pallore ti copre la faccia, quasi identico a quello del bosso, e un velo di pianto ti bagna le guance. Tre volte fai per parlare, tre volte singhiozzi, rigandoti tutta di lacrime, finché, con la voce spezzata, soavemente così ti quereli. Cosa ho fatto di male da stravolgerti tanto, tesoro? Dove è andato a finire, tesoro, il bene che mi volevi? Siamo al punto che, Alcione, tu puoi tranquillamente lasciarla? Ti piacciono i viaggi lunghi? Mi preferisci lontana? E spero tu vada via terra, così soffrirò senza stare troppo in pensiero. Tristezza pur sempre, ma senza paura. È il mare che mi sgomenta, le tristi distese del mare. Non vedevo anche poco fa sulla spiaggia rottami di legno. Quanti nomi ho letto su tumuli senza il corpo dentro, ma quanti! E non illuderti troppo, perché Eolo, figlio di Ippota, sia tuo suocero, lui che volendo tiene i più violenti dei venti sotto chiave, lui che rappacifica le acque del mare, volendo. Una volta che scatenati han preso possesso dei mari, i venti nessuno li ferma. Non c'è terra, non c'è specchio d'acqua di cui fidarsi. Sballottano pure le nuvole in cielo, che cozzando impazzite sviluppano fuochi accecanti. Più li conosco, e da sempre li conosco, quanti ne ho visti da bambina a casa del babbo, più so quanto sono tremendi. Ci ho detto, se non c'è preghiera che possa farti recedere, e sei proprio deciso a partire, marito amatissimo, prendimi almeno con te. Non avrò paura, se non di pericoli a portata. Sbatacchieremo insieme, sopporteremo quel che sarà, navigando le distese insieme del mare. A queste parole di pianto della figlia di Eolo, anche il figlio dell'astro si lascia commuovere, non che lui la ami di meno, ma non vuol rinunciare al progetto del viaggio per mare, né vuole esporre Alcione ai pericoli che il viaggio comporta. Così, per metterle il cuore in pace, lui non risparmia argomenti, ma lei non si lascia convincere. Allora, per consolarla, lui spende quest'ultimo, l'unico cui si rassegni d'amore. Qualsiasi assenza, lo so, è eterna per noi, ma ti giuro, su mio padre, che se i fati me lo consentono, prima del plenilunio secondo io sarò tornato da te. Acceso in lei quel minimo di speranza con questa promessa, lui dispone che dalla darsena gli tirino fuori una nave e gliela mettano subito in mare, armata a dovere. A vederla, Alcione, come leggesse il futuro, Torna a tremare tutta, le lacrime le salgono all'orlo degli occhi, lo abbraccia stretto, poi, poverina, in un soffio di voce riesce a dire appena addio e si accascia tutta su sé. Ceice vorrebbe attardarsi, ma i giovani dell'equipaggio, disposti in due file, tirano i remi contro i toraci di ferro e fendono le acque a ritmo uniforme. Alza gli occhi bagnati, Alcione. In piedi, sulla poppa bombata, il marito è lì che la sta salutando, sventolando la mano per primo, e lei risponde al saluto. Quando poi si allontana da terra la nave, che non si riesce a riconoscere un viso, la donna insegue con gli occhi, finché può, la nave che va. E presto la lontananza le ha cancellato lo scafo e vede appena le vele che ondeggiano in cima alle antenne. Ma quando non vede più nemmeno le vele, ritorna nel letto vuoto e si stende. E letto e stanza rinnovano il suo pianto perché le ricordano quanta parte di sé se n'è andata. Uscita di rada la nave, le sartie vibrano tutte di brezza. La ciurma ritira i remi sulle murate, issa il pennone in cima all'albero di maestra e spiega tutte le vele al vento che s'è levato. A metà del viaggio, ma forse anche meno, la nave solcava le acque lontana dall'una terra e dall'altra, che il mare, in piena notte, comincia a gonfiarsi e a biancheggiare di cavalloni, e scirocco a soffiare sempre più teso. «Ammainate i pennoni, ma subito!» blatera il capitano. «Subito, ho detto, e terzarolate tutte le vele!» L'ordine è questo. Ma l'urlo della tempesta lo copre e il rombo dell'acqua impedisce di sentire la voce. Però c'è chi prende l'iniziativa di sfilare i remi, chi di proteggere le fiancate o sottrarre le vele ai venti, e chi svuota l'acqua coi secchi e riversa il mare nel mare, e chi sbassa le antenne. Mentre ognuno si dà da fare di testa sua, l'uragano monta e da tutte le parti imperversa la furia dei venti, sobillando il mare in rivolta. Ha paura anche lui, confessa di ignorare il punto, non sa che ordini dare né cosa proibire. Il capitano di tanto il disastro eccede le risorse dell'esperienza. Dappertutto fracasso, grida umane, stridore di cavi, onde che si accavallano alle onde, tuoni nell'aria. S'impenna il mare di flutti e sembra scendere al cielo, fino a spruzzare di schiuma la volta di nuvole. Adesso, rivangando la rena gialla del fondo, ne assume il colore. Adesso si fa più nero delle acque di Stige. Adesso si spiana tutto ed albeggia in un vasto frusciare di spume. A questi capricci del mare si presta la nave Trachinia, come se sbirciasse, arroccata in vetta ad una montagna, il fondo d'un fondovalle fino ai visceri dell'Acheronte, o nel caso che si inabissi entro il cavo fra onda e onda, come se dall'infimo inferno sbirciasse la vetta del cielo. Spesso percossa sul fianco da un maroso, produce un fracasso enorme e all'urto non meno cupamente rintrona di quanto rintroni una rocca che ariete di ferro o balestra bersaglino. E come leoni, con una violenza inferocita dalla rincorsa, si avventano contro una siepe di lance, un esercito di onde si avventa contro il fasciame delle fiancate e sulla rincorsa delle raffiche le sommerge. E cedono le caviglie e saltano le commessure di pece e slabbrandosi danno accesso alle ondate letali. Ecco le nubi squagliarsi in immani rovesci di pioggia e diresti che tutto il cielo si stia versando nell'acqua mentre il mare si inerpica tumefatto ai campi del cielo. Le vele sgrondano e con le ondate celesti si mescola quell'acquazzone di mare. In cielo non una stella, e la cieca notte è accecata dalle tenebre della burrasca, per quanto il bagliore dei fulmini, tracciandola di minacce, la metta in scena e le onde lampeggino. Onde però che saltano ormai nel cavo dello scafo, come il soldato più valoroso di tutti, dopo aver infinite volte tentato di scalare i bastioni d'una città sotto assedio, alla fine riesce e tutto infiammato di gloria, fra mille soldati sul muro ci sta piantato lui solo. Così, dopo nove che contro le murate si sono infrante, una decima ondata, più grande e violenta di tutte, si scaglia sullo scafo sfiancato e lo soffoca e lo opprime finché non scavalca il bordo e irrompendoci dentro espugna la nave. Così, mentre parte del mare, assale ancora la nave, parte la già conquistata. Tutti tremano i marinai come poveri cittadini se un reparto nemico si adopera a scalzare ancora i bastioni e un altro è già dentro le mura. Non c'è perizia che valga, il coraggio è svanito, ogni onda che arriva e si frange significa l'irrompere della morte. Chi scoppia in singhiozzi, chi vaneggia, chi chiama beato chiunque avrà sepoltura, chi fa voti agli dèi mendicando aiuto, le braccia tese a un cielo che non si vede, invano. Chi è sopraffatto dal ricordo dei genitori, dei fratelli, dei figli, di casa, tutto quanto stanno perdendo. Ceice ha nel cuore soltanto Alcione, non ha sulla bocca che il nome di Alcione, desidera solo di stare con lei, anche se è felice che lei non ci sia. Vorrebbe girarsi verso la patria, rivolgere un ultimo sguardo alla casa, ma dove siano non sa, vorticoso talmente il mare, ribolle tutto all'intorno e tutto il cielo è nascosto dall'ombra dell'uragano e la notte raddoppia il suo nero. All'incursione di un turbine si sgretola l'albero, pure il timone si sgretola e l'onda soddisfatta del suo bottino guarda dall'alto, tronfia e trionfante lo sciame delle onde. Poi, come uno che scalzi alla base l'Atos o il Pindo per scaraventarli in alto mare, enormi che sono, precipita giù schiacciando sul fondo col peso e con l'urto la nave e con quella gran parte dell'equipaggio che, oppressa dalla massa d'acqua, non può restituirsi al respiro, immolata al proprio destino. Altri stanno aggrappati ai relitti del naviglio infranto. Lo stesso Ceice, con quella mano che teneva lo scettro, si tiene a un rottame e invoca suo suocero e suo padre, a vuoto, purtroppo. Ma annaspando sull'acqua, a salirgli alle labbra è Alcione, sua moglie, è lei che pensa e che chiama. E spera che rotoli il mare, il suo corpo sotto quegli occhi, così quelle mani dolcissime ne seppelliranno le spoglie. E nuota, e ogni volta che il flutto gli consente di aprire la bocca, fa il nome di Alcione, e lo fa perfino di sotto le onde. Quando ecco che un cumulo d'acqua, inarcandosi nero sulle acque, gli si frange sopra la testa e lo sommerge e lo inghiotte. Quel mattino lucifero e buio, nessuno può riconoscerlo, e siccome non gli è consentito di lasciare il suo posto nel cielo, lui copre la faccia dietro un sipario di nuvole spesse. Frattanto Alcione, ignara di tanto disastro, conta le notti e prepara di fretta i vestiti che indosserà Ceice appena tornato e quelli che al suo ritorno metterà lei, ritorno su cui conta tanto, illudendosi. Brucia incensi devoti a tutti gli dèi, d'accordo, ma più di tutti frequenta i templi di Giunone e davanti ai suoi altari prega per lui, per quel lui che non esiste più, perché le ritorni sano e salvo il marito, ritorni e non si sia innamorato di un'altra. Voto quest'ultimo, fra tutti i suoi voti, l'unico destinato a realizzarsi.